5. L'ultimo conflitto. Nella seconda settimana di settembre Maggie era di nuovo seduta nella sua stanza solitaria e combatteva contro le vecchie ombre nemiche, le quali, sempre abbattute, sempre risorgevano. Era mezzanotte passata e la pioggia picchiava pesantemente contro la finestra, sbattuta in forti raffiche dal vento impetuoso e muggente. Perché il giorno dopo la visita di Lucy, il tempo era mutato d'improvviso. Il caldo e la siccità avevano dato luogo a venti freddi e variabili, a violente e intermittenti cadute di pioggia, e a Lucy era stato proibito di esporsi al viaggio progettato finché il tempo non si fosse rimesso. Nelle contee più a monte della Floss le piogge erano state continue e si era dovuto troncare la mietitura. Ma adesso, negli ultimi 2 giorni, erano durate incessanti anche lì, sul corso inferiore del fiume, tanto che i vecchi crollavano il capo e parlavano di 60 anni prima, quando un tempo come quello, sopraggiunto verso l'equinozio, aveva prodotto le grandi inondazioni, che avevano spazzato via il ponte e ridotto la città in grande miseria. Ma la generazione più giovane, che aveva veduto parecchie piccole inondazioni, prendendo alla leggera quei cupi ricordi e presagi, e Bob Jakin, naturalmente portato a bene sperare della sua buona stella, rideva della madre quando ella rimpiangeva che avessero preso una casa sulla riva del fiume, rispondendole che solo così potevano avere delle barche, cioè la miglior fortuna nel caso di un'inondazione che li obbligasse ad andare lontano per vivere. Ma a quell'ora, tanto gli indifferenti quanto i pavidi dormivano tutti ad un modo nei loro letti. C'era speranza che il giorno seguente la pioggia scemasse. Minacce più gravi, per subitanei disgeli seguiti a cadute di neve, si erano poi più di una volta dissipate, anche a ricordo dei più giovani. E nel peggiore dei casi, gli argini dalla parte bassa del fiume, quando la marea salisse con violenza, sarebbero certamente crollati in modo che le acque potessero defluire senza cagionare che danni passeggeri e perdite sentite solo dalla classe più povera a cui la beneficenza avrebbe potuto provvedere. Ormai tutti erano nei loro letti perché la mezzanotte era passata, tutti, fuorché qualche solitario insonne come Maggie. Era seduta nel suo piccolo salotto verso il fiume, con una sola candela che lasciava tutto nell'ombra, tranne una lettera posata sulla tavola davanti a lei. Giuntale nella giornata, quella lettera era una delle cause che l'avevano fatta vegliare, così avanti nella notte. Insensibile alle ore che passavano, incurante di trovar quiete, senza che al suo spirito si affacciasse alcuna immagine di riposo, se non di quel lontano, lontano riposo, da cui non si sarebbe più destata alle lotte di questa vita terrena. 2 giorni prima di ricevere quella lettera, Maggie era stata al rettorato per l'ultima volta. La pioggia violenta le avrebbe comunque impedito di tornarvi, ma c'era anche un'altra ragione. Il dottor Ken, a cui da prima non erano giunti che pochi accenni della nuova piega presa dal pettegolezzo e dalla maldicenza riguardo a Maggie, se n'era poi da ultimo dovuto rendere pienamente conto per le vive proteste di uno dei suoi parrocchiani contro l'imprudenza di voler persistere a superare con un atteggiamento di resistenza i sentimenti che prevalevano nella parrocchia. Il dottor Ken, avendo la coscienza netta da colpe del genere, era tuttavia disposto a tener fermo e niente affatto proclive a condiscendere di fronte a un pubblico modo di sentire che era odioso e disprezzabile. Ma finalmente fu vinto dalla considerazione della specifica responsabilità connessa col suo ufficio, per cui doveva evitare ogni apparenza di male, apparenza che sempre dipende dalla media degli spiriti circostanti. Quando questi spiriti sono bassi e grossolani, l'area di tale apparenza risulta estesa in proporzione. Forse correva il pericolo di agire per ostinazione, forse era dovere suo di cedere. Le persone di coscienza non sempre inclini a vedere il loro dovere in ciò che costa più pena. Indietreggiare era sempre penoso per il dottor Ken. Concluse che doveva consigliare a Maggie di allontanarsi per un certo tempo da St. Oaks e assolse quel difficile compito con la maggior delicatezza che poteva, limitandosi a farle presente in termini vaghi come avesse constatato che il suo tentativo di aiutarla a rimanere lì era una sorgente di discordia tra lui e i suoi parrocchiani, suscettibile forse di sminuire l'efficacia del suo sacerdozio, La pregò che gli permettesse di scrivere ad un sacerdote suo amico, il quale avrebbe potuto prenderla in casa come governante, e, se no, avrebbe forse saputo di qualche altro posto adatto ad una giovane, la cui tranquillità era per il dottor Ken oggetto di vivo interesse. La povera Maggie ascoltò, con labbra tremanti. Non poteva dire nulla, fuorché un debole «Vi ringrazio, ve ne sarò grata». E tornò alla sua casa, sotto la pioggia sferzante, con un nuovo senso di desolazione. Le toccava di essere una solitaria errabonda, andare tra facce nuove che l'avrebbero guardata, meravigliando che i giorni non le passassero lieti, cominciare una vita nuova in cui si sarebbe dovuta addestare a nuove impressioni, ed era così indicibilmente, così morbosamente stanca. Casa non c'era, non protezione per l'errante. Anche quelli che ne sentivano pietà erano costretti alla durezza. Ma doveva lamentarsene? Doveva dunque rifuggire così dalla diuturna penitenza di una vita che sola le dava possibilità di alleviare il fardello di qualche altra sofferenza e per tal modo cangiare il suo appassionato errore in una nuova forza d'amore umano senza egoismi? Per tutto il giorno seguente rimase seduta nella sua stanza solitaria, con la finestra oscurata dalle nubi e dalla pioggia dirotta, pensando a quel futuro e torturandosi per giungere alla pazienza. E in che cosa, infatti, se non nel torturarsi, avrebbe potuto la povera Maggie trovare tregua? E al terzo giorno, quel giorno appunto di cui ella aveva veduto allora la fine, era giunta la lettera che stava posata sul tavolo davanti a lei. La lettera era di Steven. Era tornato dall'Olanda, si trovava di nuovo a Mudport, all'insaputa di tutti i suoi parenti, e di lì aveva scritto, accludendo la lettera in altra diretta a persona fidata di St. Oaks. Dal principio alla fine era un appassionato grido di rammarico, un appello contro l'inutile sacrificio che ella aveva imposto a lui e a sé medesima, contro quell'errato sentimento di giustizia che, in omaggio a una pura teoria e senza alcun vantaggio effettivo, l'aveva trascinata a fiaccargli tutte le speranze. Le sue speranze, mentre ella lo amava ed egli la amava, di quella passione unica e prepotente, di quell'adorazione che un uomo non offre alla donna più di una volta nella vita. «Mi hanno scritto che state per sposare Ken? Come se io potessi crederlo!» Forse avranno raccontato anche a voi con simili falsità sul conto mio. Forse vi avranno detto che stavo viaggiando. Il mio corpo si è lasciato trascinare altrove. Ma io non mi sono mai allontanato dall'orrendo luogo in cui mi abbandonaste, in cui mi destai dallo stupore di una rabbia disperata per non trovarvi più. Maggie, chi ha mai provato un dolore come il mio? Chi un'ingiustizia come questa? Chi, fuori di me, ha incontrato quel lungo sguardo d'amore che si è bruciato entro l'anima mia, sì da precludere ogni altra immagine? Maggie, richiamatemi a voi e richiamatemi alla vita e alla bontà. Ora son bandito dall'una e dall'altra. Non c'è più nulla che mi tocchi. Sono indifferente a tutto. Questi 2 mesi sono serviti soltanto a far più profonda la certezza che senza di voi non mi importerà mai nulla della vita. Scrivetemi questa sola parola, venite, e in 2 giorni sarò da voi, Maggie. Avete dimenticato che cos'era stare insieme, poterci raggiungere con uno sguardo, poter sentire la voce l'una dell'altra. Quando Maggie lesse per la prima volta questa lettera, le parve che la vera tentazione fosse cominciata solo in quel momento. All'entrare in una fredda e oscura caverna, si abbandona con intatto coraggio la calda luce, ma che avviene quando, a lungo inoltrati nell'umido tenebrore, ormai presi dallo scoraggiamento e dalla fatica, che avviene se improvviso uno spiraglio ci si apra dinanzi e ci inviti a tornare nella vitale luce del giorno? Così impetuosa è la nativa brama di balzar fuori dalle strettoie dell'angoscia che tutti i motivi meno urgenti sono presto dimenticati finché non si sia sfuggiti alla pena. Per ore parve a Maggie che la sua lotta fosse stata invano. Per ore ogni altro pensiero che la si sforzasse di evocare fu scacciato dall'immagine di Steven in attesa della parola che l'avrebbe ricondotto a lei. La lettera non l'aveva letta. Se l'era udita pronunciare da lui e quella voce l'aveva sconvolta con lo strano potere di un tempo. Tutto il giorno innanzi ella si era sentita colma della visione di un futuro solitario, attraverso cui portare il peso del rimpianto col solo sostegno di aggrapparsi alla fede. Ed ecco, proprio alla sua portata, urgente su di lei come un diritto, un altro futuro in cui l'aspro patire e il contendere si tramutavano in un facile, delizioso abbandono all'altrui forza d'amore. E tuttavia, questa promessa di gioia, sostituita alla tristezza, non esercitava su Maggie la tremenda violenza della tentazione. Era il tono doloroso di Steven, era il dubbio sulla giustizia della propria decisione che faceva oscillare la bilancia, che già una volta l'aveva fatta balzare dalla seggiola per prendere carta e penna e scrivere «Venite!». Ma proprio sul punto di quest'atto decisivo il suo animo arretrò. E il senso di una contraddizione, coi momenti di maggior forza e lucidità del suo passato, la incolse come un orrore di consapevolmente degradarsi. No, doveva aspettare, pregare doveva, e la luce sarebbe tornata, la luce che l'aveva abbandonata. E ancora ella avrebbe sentito ciò che aveva provato quando era fuggita, sotto un'ispirazione forte abbastanza per vincere l'agonia, per vincere l'amore. Ancora avrebbe sentito ciò che aveva provato allorché Lucy era stata accanto a lei, allorché la lettera di Philip aveva smosso tutte le fibre che la avvincevano al più calmo passato. Rimase seduta, immobile, molto innanzi nella notte, senza il minimo impulso a cambiar di posizione, senza neppure quel tanto di iniziativa bastevole per una preghiera mentale, solo aspettando la luce che certo sarebbe tornata. E venne essa, con le memorie che nessuna passione poteva più estinguere. Il lungo passato ritornò a lei, la ricondusse alle fonti della pietà e dell'affetto disinteressati, della fedeltà e della fermezza. Le parole sottolineate da quella mano, ormai in pace, nel piccolo vecchio libro che ella aveva tanti anni prima imparato a memoria, le risgorgarono sulle labbra e trovarono esito in un murmure sommesso che si perse nel fragoroso sferzare della pioggia contro la finestra, negli alti gemiti e ruggiti del vento. Ho ricevuto la croce, l'ho ricevuta dalle tue mani, io la porterò fino alla morte come tu l'hai imposta su di me. Ma subito altre parole si destarono, che non seppero trovare sfogo che in un singhiozzo: «Perdonami, Steven, tutto questo passerà e tu ritornerai da lei». Prese la lettera, l'accostò alla candela e lasciò che ardesse lentamente sulla fiamma. All'indomani gli avrebbe scritto l'ultima parola di addio. Io la porterò fino alla morte. Ma come sarà lungo prima che venga la morte? Sono così giovane, così robusta, come troverò la pazienza e la forza? E ancora dovrò lottare e cadere e pentirmi? Ancora la vita mi riserva altre prove così dure? Con questo grido di disperazione, Maggie cadde in ginocchio presso la tavola e si coprì la faccia, devastata dal dolore. L'anima sua riparò nella pietà invisibile che le sarebbe rimasta accanto sino all'ultimo. Qualcosa sicuramente stava per venirle comunicato attraverso questa prova di un'indulgenza estrema. Forse che le toccava di essere iniziata a un segreto di umana tenerezza e di diuturna pazienza, quale chi meno ha errato appena può conoscere. In quel momento Maggie avvertì uno strano e improvviso senso di freddo alle ginocchia e ai piedi. Era acqua che scorreva sotto di lei. Si alzò. Quel fiotto proveniva di sotto la porta che dava nel corridoio. Non ebbe neppure un attimo di sgomento. Capì che era l'inondazione. Il tumulto di emozioni provato durante le ultime 12 ore pareva aver lasciato in lei una grande calma. Senza gridare, prese la candela e corse al piano di sopra, nella camera da letto di Bob Jakin. La porta era socchiusa, entrò, lo scuoté per le spalle. «Bob, l'inondazione è già dentro casa, vediamo se si possono mettere le barche al sicuro». Gli accese la candela, mentre la povera moglie, abbrancando il piccino, si metteva a urlare. Poi tornò a precipitarsi da basso per guardare se le acque stavano crescendo rapidamente. C'era un gradino alla porta che dal pianerottolo dava nella camera. Vide che l'acqua era già a livello di quel gradino. Mentre stava guardando, qualcosa si abbatté con tremendo fragore contro la finestra e lanciò nell'interno tutti in frantumi i vetri impiombati e il vecchio telaio di legno, mentre l'acqua faceva empito per la breccia. «E la barca!» gridò Maggie. «Bob, scendete a fissare le barche!» E senza il minimo tremito di paura si buttò attraverso l'acqua che stava rapidamente salendole alle ginocchia. e alla luce vacillante della candela che aveva lasciato sulle scale, salì sul davanzale e si lasciò scivolare nella barca, rimasta con la prua conficcata nel vano della finestra. Bob non tardò a seguirla, precipitandosi senza scarpe né calze, ma con la lanterna in mano. Eccole qui, tutte e due le barche, disse Bob, mentre scendeva in quella dove era Maggie. Straordinario che non si sia spezzato anche questo attacco. Come ha fatto l'ormeggio? Nella furia di buttarsi nell'altra barca, slegarla e impadronirsi di un remo, Bob non si avvide del pericolo che Maggie correva. Non si riesce mai a temere per chi non teme, quando si è compagni nello stesso pericolo. E poi Bob era tutto preoccupato di escogitare qualche mezzo di scampo per quei poveretti che erano in casa. Il fatto che Maggie si era alzata aveva destato lui ed era stata la prima ad agire, lasciava a Bob la vaga impressione che la fosse uno di quelli che danno una mano al soccorso, non che ne abbiano bisogno per sé. S'era impossessata anche lei di un remo e facendo forza con quello aveva liberato la barca dal vano della finestra che l'imprigionava. L'acqua sale così rapidamente, disse Bob, che ho paura che tra poco sarà su nelle camere. La casa è talmente bassa. Mi par quasi meglio, se ci riesco, di mettere Prissy col bambino e la mamma nella barca e affidarmi all'acqua, perché la vecchia casa non è sicura. E se lascio andare la barca, ma voi? Esclamò buttando d'improvviso la luce della sua lanterna su Maggie, che era diritta fra la pioggia, il remo in mano, i neri capelli al vento. Maggie non ebbe tempo di rispondere, perché una nuova ondata della marea spazzò le facciate delle case e rapì tutte e due le barche sulla distesa delle acque con una forza che le buttò molto al di là dalla linea in cui il corso discendente del fiume scontrava la marea avversa. Nei primi momenti Maggie non sentì nulla, non pensò a nulla, se non d'essere varcata improvvisa di là da quella vita che aveva temuta. Era il trapasso della morte, senza l'agonia, ed era sola nelle tenebre, con la provvidenza divina. Tutto questo era stato così rapido, così simile a un sogno, che la trama delle associazioni consuete si era spezzata. Ella ricadde sul sedile, stringendo meccanicamente il remo, e per un lungo tratto non ebbe una precisa idea della propria situazione. La prima cosa che la destò ad una più piena coscienza fu il cessare della pioggia e l'accorgersi che l'oscurità era cerchiata da un filo di luce che divideva la tenebra sospesa sul suo capo dalla smisurata distesa delle acque sotto di lei. Era trasportata sull'inondazione, quel tremendo castigo divino di cui suo padre soleva narrare, che era stato l'incubo dei suoi sogni infantili, e con questo pensiero l'assalse la visione della vecchia casa, di Tom e di sua madre. Quei racconti li avevano uditi tutti insieme. Oh, dove sono? Come raggiungere la casa? Gridò nella buia solitudine. Che stava succedendo al mulino? Una volta l'inondazione l'aveva quasi distrutto. Potevano essere in pericolo, in distretta, sua madre e suo fratello, là soli, tagliati fuori da ogni soccorso. Tutta la sua anima era ormai contratta in questo pensiero. Vedeva quei volti lungamente amati che cercavano soccorso nelle tenebre e non ne trovavano. Galleggiava ora sulle acque tranquille, lontana forse, al di sopra dei campi allagati. Non c'era senso di pericolo immediato che contenesse l'anelare del suo spirito verso la vecchia casa. E aguzzava gli occhi contro il velario di tenebra per poter afferrare un segno, il primo del luogo dov'era, per poter cogliere qualche vago indizio del punto verso cui tendevano tutte le sue ansie. Oh, come benvenuto l'aprirsi di quella tetra distesa di acque, il graduale innalzarsi del cielo nuvoloso, le nere forme delle cose che lentamente si definivano sul tenebroso specchio. Sì, doveva trovarsi al di sopra dei campi, queste erano le cime degli alberi, delle siepi. Qual era il letto del fiume? Guardando dietro di sé vedeva i filari di alberi scuri, davanti a sé nulla. Dunque il fiume era davanti a lei. Afferrò un remo e cominciò a spingere la barca in avanti con l'energia di una speranza ridesta. L'aurora pareva avanzare più rapida. Ora che ella agiva, né andò molto che poté scorgere delle povere bestie mute che si stipavano miseramente su un'altura dove avevano trovato rifugio. Avanti, sempre, ora a pagaia, ora a remi, nell'aprirsi del crepuscolo, le vesti bagnate le si incollavano addosso e i capelli inzuppati le sbattevano al vento, ma le sensazioni fisiche la toccavano appena. tranne quella di forza suscitata in lei dalla forza dell'emozione, all'idea del pericolo che correvano là, nella vecchia casa, quegli esseri da tanto tempo amati, al pensiero di riuscire a salvarli si associava, indefinito, un senso di riconciliazione col fratello. Qual dissapore, quale asprezza, quale diffidenza reciproca può sopravvivere alla presenza di una grande calamità, quando, caduta ogni artificiosa scorza della nostra vita, tutti ci troviamo l'uno di fronte all'altro, ridotti ai nostri primitivi bisogni umani. Questo Maggie sentiva, confusamente, in quel veemente rinascere d'amore verso il fratello che spazzava via ogni più recente impressione di offese e di incomprensioni dure e crudeli, per non lasciare che le profonde, segrete e incrollabili memorie del loro primo affetto. Ma ecco che in distanza si profila una grande massa cupa, presso la quale Maggie poté discernere la corrente del fiume. La massa cupa doveva essere. Sì, era St. Ogg's. Ah, sapeva ora da quale parte cercarlo. Il primo accennare degli alberi ben noti, i salici grigi, i castagni che cominciavano a ingiallire, e sopra di quelli il vecchio tetto. Ma ancora non si distinguevano colori né forme. Tutto era labile e confuso, con sempre maggior impeto parevano affluire in Maggie le energie e tendersi tutte, quasi che la sua vita fosse una forza accumulata che doveva spendersi in quell'ora, non più necessaria per nessun altro avvenire. Doveva portare la barca entro la corrente della flossa, altrimenti non sarebbe mai riuscita a attraversare la Ripple e accostarsi al mulino. Era questo il pensiero che le si affacciava, mentre veniva immaginando sempre più vividamente come potevano andare le cose nei pressi della vecchia casa. Ma per tal modo poteva anche essersi trascinata molto a valle e non riuscire poi più a riportare la barca fuori della corrente. Per la prima volta cominciavano ad assalirla precise idee di pericolo, ma non c'era possibilità di scelta, non luogo ad esitazioni, ed ella si lanciò nella corrente. Ora procedeva veloce, senza sforzo, col diminuire della distanza e il crescere della luce, cominciava a distinguere sempre più chiaramente delle forme, che sapeva essere gli alberi e i tetti ben noti. Non era lungi, anzi, da una rapida e fangosa corrente che doveva essere la Ripple, stranamente mutata. Grandio! Venivano giù per quella corrente delle masse che potevano cozzare al suo passaggio contro la barca ed essere causa che la perisse troppo presto. Che cos'erano quelle masse? Per la prima volta il cuore di Maggie si mise a battere in un'agonia di terrore. Disperata si sedette, oscuramente accorgendosi di essere trascinata a valle più intensamente, presentendo quell'urto temuto. Ma fu sgomento passeggero e scomparve avanti che l'arrivasse ai magazzini di St. Oaks. Aveva dunque varcata la foce della Ripple, ora doveva usare tutta la sua destrezza e la sua forza a governare la barca e portarla, se possibile, fuori della corrente. A quel punto poté vedere che il ponte era stato distrutto, poté vedere gli alberi di un bastimento arenato molto in là, sui campi allagati, ma barche che navigassero sul fiume non se ne scorgevano. Tutte quelle che si era riusciti ad agguantare venivano impiegate per le strade invase dalle acque. Con nuova risolutezza, Maggie tornò ad alzarsi e, afferrato il remo, a spingersi a pagaia. Ma la marea, ora discendente, aggiungeva rapidità al corso del fiume ed ella fu portata oltre il ponte. Udì delle grida dalle finestre che guardavano verso il fiume come di gente che la chiamasse. Solo quando ebbe quasi passato Tofton riuscì a svincolare del tutto la barca dalla corrente. Allora, senza concedersi più che uno sguardo di tenerezza verso la casa dello zio Dean, che era situata un poco più a valle, afferrò i due remi e si mise ad arrancare a tutta forza attraverso i campi allagati per risalire al mulino. Ormai i colori delle cose cominciavano a destarsi, di mano in mano che si accostava alle terre di Dorlcote. Maggie arrivava a distinguere il tono degli alberi, i vecchi pini di Scozia lontani alla sua destra e i castagni casalinghi. Oh, come profondamente attuffati nell'acqua, più profondamente che gli alberi di quest'altro fianco della collina. E il tetto del mulino dov'era? E quei pesanti rottami che correvano giù per la Ripple, che volevano dire? No, non era la casa. E s'era là, in piedi, sommersa fino al primo piano. Ma ancora in piedi, o era crollata forse dalla parte verso il mulino? Con una palpitante gioia di essere finalmente là, gioia che vinceva ogni disperazione, Maggie si accostò alla facciata della casa. Non udì alcun rumore dapprima, né vide cosa che si muovesse. La sua barca era al livello delle finestre del primo piano. Chiamò con voce forte e acuta: Tom! Dove sei? Mamma! Dove sei? C'è qui Maggie! Subito dalla finestra centrale del solaio udì la voce di Tom. Chi è? Avete portato una barca? Sono io, Tom. Maggie, dov'è la mamma? Non è qui, è andata a Garum, avantieri, ora scendo alla finestra di sotto. Sola, Maggie, disse Tom con accento di profondo stupore mentre apriva la finestra di mezzo davanti a cui si trovava la barca. Sì, Tom, il Dio m'assista e m'ha portata fino a te. Vieni presto, non c'è nessun altro. No, disse Tom saltando nella barca. Temo che l'uomo sia annegato. È stato travolto dalla Ripple, credo, quando una parte del mulino è crollata sotto l'impeto degli alberi e delle pietre. L'ho chiamato ripetutamente, ma non ho avuto risposta. Dammi i remi, Maggie. Solo quando Tom ebbe portata in fuori la barca e si trovarono sulle acque aperte, Tom, a faccia con Maggie, il vero significato di quanto era successo fece impeto dentro di lui. Gli si affacciò con forza così prepotente. Fu per il suo spirito una così nuova rivelazione delle profondità della vita, rimaste di là dalla sua veduta, che pure aveva immaginata tanto penetrante e sgombra, che egli si sentiva incapace di formulare qualunque domanda. Stettero silenziosi, fissandosi l'un l'altra. Maggie, con occhi di intensa vita, affacciantisi da un volto stanco e abbattuto. Tom, pallido, con un senso di riverenza e di umiliazione. Il suo pensiero era operoso, quantunque le labbra fossero mute, e non gli riusciva di rivolgere domande. Indovinava una storia di sforzi quasi miracolosi e protetti dalla provvidenza divina. Ma una nebbia alfine gli si addensò sugli occhi grigio-azzurri e le labbra trovarono una parola che finalmente potevano pronunciare, il vecchio Maggie dell'infanzia. Maggie non seppe dare altra risposta che un lungo, profondo singhiozzo di quella misteriosa, stupenda felicità che è tutt'uno con la pena. Appena fu in grado di parlare, disse: Andiamo da Lucy, Tom, andiamo a vedere se è in salvo e allora potremo soccorrere altri. Tom remava con lena instancabile e con ben altra rapidità che la povera Maggie. In un momento la barca rientrò nella corrente del fiume, in un momento sarebbero arrivati a Tofton. La casa del parco è in alto, fuori dell'inondazione, disse Maggie. Forse che Lucy l'avranno portata là. Null'altro fu detto. Il fiume stava scagliando incontro a loro un nuovo pericolo. Certe strutture in legname su una delle banchine avevano ceduto in quel momento e gli enormi rottami venivano travolti dai flutti. Ormai stava levandosi il sole e l'ampia distesa di quella liquida desolazione si allargava intorno a loro in un terribile chiarore fluivano incontro a loro le veloci, minacciose masse. Un folto gruppo di persone su una barca che stava faticosamente facendosi strada al di sotto delle case di Tofton avvertirono il loro pericolo e gridarono «Fuori dalla corrente!» Ma non era cosa che potesse farsi in un momento e Tom, guardando davanti a sé, vide la morte che si precipitava su loro. Enormi rottami, congiunti in una fatale connessione, formavano una sola, vasta massa attraverso la corrente. Ecco che arriva, Maggie, disse Tom con voce profonda e roca, abbandonando i remi e abbracciandola. L'istante dopo, la barca non era più visibile sulle acque, e la massa mostruosa correva via nel suo sciagurato trionfo. Ma ben presto la chiglia della barca ricomparve, macchia nera sulle acque d'oro. La barca ricomparve, ma il fratello e la sorella erano affondati in un abbraccio per sempre indivisibile, rivivendo in un attimo supremo i giorni in cui avevano intrecciato con amore le loro piccole mani e insieme vagato per i prati di Margherite. Conclusione. La natura ripara le proprie devastazioni, le ripara col calore dei suoi soli e con il lavoro umano. A distanza di 5 anni, Il guasto prodotto da quell'inondazione aveva lasciato poche tracce visibili sulla faccia della terra. Il quinto autunno fu ricco di biche d'oro, sorgenti in file serrate tra le siepi lontane. I moli e i magazzini sulla Floss di nuovo fervevano di opere, risuonavano di voci concitate, chi caricava, chi scaricava, tutti pieni di speranza. E coloro di cui tocca questa storia erano ancora tutti vivi, uomini e donne, eccetto quelli di cui sappiamo la fine. La natura ripara le proprie devastazioni, ma non tutte. Gli alberi schiantati non rimettono radici, le colline squarciate serbano la cicatrice. La vegetazione è rinata, gli alberi non sono più quelli di una volta e i colli sotto il verde manto portano i segni del passato strazio. Per gli occhi che si sono attardati sul passato non c'è riparazione completa. Il mulino di Dorlcote era ricostruito e il cimitero di Dorlcote, dove la tomba di mattoni entro cui era rinchiuso un padre che conosciamo, era stata trovata dopo l'inondazione con la pietra battuta, aveva recuperato il suo ordine erboso e la sua degna pace. Accanto a quella tomba di mattoni, un'altra fu eretta poco dopo l'inondazione, per due corpi che erano stati ritrovati in uno stretto abbraccio, e quella tomba era visitata in ore differenti da due uomini che ugualmente sentivano essere la loro più viva gioia e la loro più viva pena, per sempre sepolta là dentro. Uno dei due tornò a visitare la tomba con un dolce viso accanto al suo, ma fu parecchi anni dopo. L'altro era sempre solitario. Non trovava compagnia che tra gli alberi dei fondi rossi, dove la gioia sepolta pareva ancora aleggiare come un'anima ritornante. La tomba portava i nomi di Tom e di Maggie Tulliver, e sotto i nomi stava scritto: «Nella morte non furono divisi». Fine.